Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. '81, Savannah, stato della Georgia. Seduto su una panchina alla fermata del bus, il tenero Forrest Gump racconta ai passanti frammenti della sua storia ed insegna ad ognuno di noi due lezioni fondamentali: che ogni giorno è unico e imprevedibile. Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E che nessuno è più idiota di chi ha deliberatamente deciso di esserlo. Mamma dice che stupido è chi lo stupido fa, eh? Scemo e più scemo, demenza e demenzialità. Due termini apparentemente simili che descrivono realtà diverse. Il primo nasconde un disturbo mentale, il secondo una profonda intelligenza avvolta nel surreale, come un nucleo nel citoplasma. Da Stanlio e Ollio a Jerry Lewis, da Jim Carrey a Mel Brooks, la stupidità simulata è un veicolo per raccontare, deridere, descrivere il mondo attraverso l'arma di comunicazione più potente dello spettro antropico: l'umorismo. Oggi Polaroid annoda i fili disgiunti di parola comica e musica, alla scoperta dei brani demenziali che hanno buggato la musica italiana. Anno dopo anno, canzone dopo canzone, risata dopo risata, in una raffica di scatti col flash. Ruotate le dita, unite le falangi. Inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. '1958. Un tizio di Biella, con un panciotto gessato e i baffetti da sparviero, fa il verso ai duri americani alla Clark Gable, saltellando sui tempi sbiechi di uno swing. Si chiama Ferdinando Buscaglione, ma per tutti è Fred, dal whisky facile. Ehi, hey, Freddy, tu bevi da morire, non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa fare? Ma non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Sono Freddy, dal whisky facile, son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, ma un fatto abile, e la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Per stare bene io bevo alla mattina la nitroglicerina. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Sì, sì, ri, sì, ri. Non mi correggo. No, non mi tentate, altre persone si son provate. Scusate tanto se ho il whisky facile. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Rettere, parodia del mondo in celluloide fatto di gangster, pistole e pupe esce dalla radio e finisce nel tubo catodico, frizzando sull'unico canale nazionale, Radio Audizioni Italiane 1. Si evolve, passa dal quartetto Cetra e atterra 10 anni dopo sulle scale di un pollaio, quello di Cocchi e Renato. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Infatti, all'inizio del mondo, essa veniva chiamata volpe. Perché volpe? A volpe per le sue belle piume. Ah sì sì, volpe. Mentre l'asino non era ancora in commercio perché non era diventato ruota. Io ho visto un incidente dove c'era un camion scarico di lavabos che si è scentrato con un pullman, scosso tutta la gente che mangiava i sanguis e ha perso una ruota. Ma del resto tutta la vita è una ruota e la gallina seduta nella via ripete, ripete, ripete il suo gesto. La gallina solo di piume ricoperta e sta sempre rinchiusa all'aria aperta e non prova invidia né avversione neanche verso le pecore che le passano davanti col maglione. Tutte le pecore nella loro superiorità superba gli passano davanti con un maglione di cashmere e con un bottone proprio qui sul collo. L'unica cosa calda che ha sono le uova che ci dà sempre fresche. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Così pensammo di aiutarne una bella gallina tutta ricoperta di piume e di sotto aveva un magazzino di scarpe e dietro un tugurio dal quale uscivano le uova. E così scoprimmo che la gallina ama molto il caldo e che denudata, oliata per evitare le scottature, messa a 120 gradi, essa perde ogni scontrosità e diventa molto buona. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. È buona la gallina. La gallina è molto buona, ma non è intelligente. Com'è buona la gallina. Assaggia questo pezzo, senti. Che buona la gallina. Com'è buona la gallina. Non è intelligente, però è molto, molto buona. Stesso canale, mondo diverso, 20 anni dopo un'altra divinità della radio atterra sul palco di Sanremo con pieno d'orchestra, luci, polemiche, fiori e tutto il resto. È il 1986 quando Renzo Arbore porta all'Ariston la raffinatissima metafora di un pompino, il clarinetto. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu filu filu fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È un

e che la bocchina di mamma, e capì? Questo cazzo di miei, i soldi tengo, a fare le carne mangi tutti i giorni, a testa 600 e mezzo, ma danno a cattare i genitori tuoi. Ah. E mi alza la mattina, faccio bello un bagno, mangio nuovo, e chi cazzo mo fa fa? Chi cazzo mo fa fa? Zambelletti, Berta, scendi, spacco qua, spacco là, ma che spacca? Tiena su posto invece lo cazzo. Ti, ma ha già cattato un usurette, l'ho comprato tutte le sere. Che la mamma diceva se non è tuo milanese dell'Alta Italia. Eravamo tanti anni o cazzo e fermo. Oggi spacco cazzo a te e a tutte la bocchina che ti è morto con la faccia tua a bocca a chi ti è morto a te, a mamma, da padre, da chi lo c'è che non pensa a bocchinare a chi lo bocchini e padre. Ah, mi basta la musica, una pasta con le patane e finito lì. Aspetta, aspetta. Ti. Berta. Berta. Vacca di una puttana troia. Se non scendi domani mattina mi devo far operare. Sono 15 anni che non me la dai. Ti prego, vieni giù, no? Ti do una perticata e torni su. Lo sai che c'è una bella bestia, no? Non lo puoi dire di no. A chi bestie, bestio, toro, toro, ma valutori, ce ne fottano i vestitori. Stiamo a macelleria, in piazza Vicolo Terza. Ma non c'è un bro cazzo a te. A te. Ma pochi di mamma e a chi lo c'è sei padre a fanculo. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Solo su Radio 105. 1988. Cologno Monzese. Studi Mediaset. Mega Salvi Show. È tutto assurdo. Il programma è assurdo. 15 minuti in seconda serata su Italia 1. Ma chi l'ha autorizzato? I personaggi sono assurdi. Lo zio Pino, categorico, l'amaro qualunque, Perri Naso e i tormentoni tipo Ciao e basta, Illo ha fatto appelloso, Il lupo e il vanò, ripetuti all'infinito. La sigla è assurda. C'è da spostare una macchina? È un diesel? E ancora più assurdi sono i 5 dischi di platino e i 7 dischi d'oro che questa canzone demenziale si è portata a casa, tritando la lambada, Like a Prayer e i Tears for Fears. Finisce perfino sul palco di Sanremo. Dirige Peppe Vessicchio, canta Francesco Salvi. The Jockey, c'è da spostare la macchina. The Jockey, c'è da spostare la macchina. È un diesel, a piacere, dai. Spostare una macchina, pago io. The Jockey, è un diesel. 5 c'è vederti danzare Polaroid up the volume, dance with the speaker till you hear it blow, then plug in a headphone, cause here it go, it's a four-letter word, when it's hard to control, your body to dance. Istantanee di storia della musica. Oggi Polaroid annoda i fili disgiunti di parola comica e musica, alla scoperta dei brani demenziali che hanno buggato la musica italiana. Anno dopo anno, canzone dopo canzone, risata dopo risata, in una raffica di scatti col flash. A chi non torna in mente una canzone di adesso oppure tanto tempo fa, che gli ricorda qualche situazione o un momento di felicità. Chi la canta in canottiera sul balcone e chi invece la domenica in città. A me mi torna in mente una canzone che mi cantava sempre mio papà. Diceva se qualcosa non va bene, canta un poco che ti passerà. Le parole me ne sono dimenticate, ma la musica ricordo fa così. Luglio 1989, Venezia, giorno del Redentore. Si commemora la fine della peste nera del 1577, come ogni anno da mezzo millennio. Decine di migliaia di imbarcazioni invadono la laguna, ma a sbarrare il loro beccheggio, questa volta, ci sono due enormi zattere di 50 metri per 30. Il palco galleggiante del concerto dei Pink Floyd. Il tappeto di organo è già partito e fa tremare la superficie dell'acqua. Gilmour stringe il plettro e suona le prime quattro note di Shine On You, Crazy Diamond. Boato. Lo sa la band, lo sanno gli organizzatori, lo sa il pubblico. Qui si sta scrivendo la storia della musica live. Nessuno sa invece che stanno per accadere una riga di casini. musica sgretola i muri degli edifici storici, divella i pali che reggono l'intera città e un fiume di spazzatura invade il Canal Grande. I veneziani non sono incazzati, sono furiosi. Così furiosi che si ricorderanno per sempre di questo cazzo di concerto dei Pink Floyd. Solarsi, nemmo al paradiso imbriagarsi. È l'alba, Venezia è piena di gente a tocchi, qui tocchi si copi. E tanta ma tanta mona, mese rosse, mese in coma. Ai 5 del mattina, qui stecchi sui osi, in mezzo a una calca mai vista. Che ho fatto il giornalista e che ho scritto solo l'intervista. Su sto cazzo del concerto di Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Di queste dimensioni proprio a Venezia. No, perché lo gli do troppo bigue. Però la grotti, voi tutto tiri. Grazie. Vi mandi tuo coccone dai che andiamo dei bone. Due tizie con passo semi strassinato. Due tizie semi buone, semi chic, semi vip, semi freak. Che gridano. Perché ho di Venezia? Perché fa schifo. Domanda, perché non te ne sei stata a casa tua? I cinque energumeni assieme le due tisse mi guardano molto minacciosi e mi fa sapere. Fa sapere. Ore 6 e 5 di licenza andando a casa, vado il sole, rido, fanno piangere. E gente scaturia dice quello salga. E non ti vedi che sei uno di chi so fai. Che sei andai a vedere i Pink Floyd. E sei uno di chi so fai. Che sei andai a vedere i Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. '91, Milano. Ancora Shine On You Crazy Diamond, ma questa volta sul palco di Zelig, storico locale di cabaret in fondo a Viale Monza. Non è una cover, è solo un sample, un campione, mescolato ad altri grabbati da pensieri e parole di Battisti, Iva Tussi, Sadness degli Enigma e Bella Ciao. È la versione un po' più arrapante di un pezzo rap, chitarra e voce che si intitola Senza Fiato, composta da un giovane Rocco Tanica per un giovane cabarettista pelato, Claudio Bisio. Un pezzo di protesta contro i cantautori logorroici, le ballate da falò e le stronze che ti mollano dopo le vacanze. Uscirà col nome di Rapput e in Italia venderà più copie di Black or White. Moriva addosso, io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che inseguita dalla notte già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga, e come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io dicevo sì capisco, vuoi gli scampoli d'assenza, ma pensavo puttana. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti quest'estate. estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare i nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi scusa cara, cosa cazzo ti prepari per l'estate? Siamo ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti, mi dicesti siamo onesti, vuoi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi no prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi, ma pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia ci andavate solo per sentirvi. Che ne sai della nostra ferrovia, che traffici solai? Che ne sai? Puttana. Vabbè, no, basta, sorriso. Puttana. Poi sei tornata dalla Grecia, io fingevo che non mi importava niente, ti chiedevo le notizie più banali, tipo chissà quanta gente avrei trovato, che bordello di turisti, tu negavi ed affermavi no no no no no no no no no no no no no no no no. Eravamo solamente io e Giovanna sopra un'isola deserta, insomma tipo c'hai presente, 2 chilometri di spiaggia tutta vuota, dormivamo in un capanno in riva al mare, ed ogni sera i pescatori ci portavano del pesce, facevamo le grigliate sulla spiaggia e cantavamo squarciagola le canzoni di Battisti fino all'alba, tanto l'isola è deserta, mi dicevi, io pensavo ma che cazzo, tutti quelli che ritornano dalla Grecia sono stati sopra un'isola deserta, tipo ciò presente, 2 chilometri di spiaggia vuota col capanno e pescatori, ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo di isolacce deve averci questa merda di una Grecia. Poi sti pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare ed impiccarsi con le reti senza andare a infortunare le ragazze come te, che normalmente sono brave ma travolte dagli eventi non disdegnano di fare la puttana. Adesso tu mi chiedi come mai sono così pallido e fatito mentre tu sei tanto sana, la risposta è fra le righe di quest'aria che ti canto, che nel mentre che tu stavi sopra l'isola deserta strafogandoti di cozze con Giovanna e pescatori, io da solo chiuso in casa non potevo fare a meno di pensare a te lontana già da qualche settimana e comporti una canzana praticando una gincana che mi ha fatto al fin capire che tu sei, saresti stata, eri, fossi, sarai sempre, dillo pure anche a Giovanna. Istantanee di storia della musica si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. 1687, Reims. Tra i requisiti più utili per un intelligente che si finge idiota, c'è senz'altro la cultura, con particolare riferimento a quella classica. La conoscenza degli immortali versi dei poeti greci e romani, ritenuta da molti inutile e delitaria, può al contrario risultare indispensabile per la compilazione di successi nazional popolari. Prendiamo ad esempio il mito di Achille e Polissena, nella sua declinazione barocca, orchestrata a 4 mani da Pascal Colas e Jean-Baptiste Lully. Più pop, un testo ad hoc e la perizia musicale del complesso denominato Elio e le storie tese, questa Bure può diventare l'inno di battaglia dell'indomito supereroe che spalma la merda in faccia. Tra le maschere che un uomo può indossare, ricordiamo l'argilla. Fra le maschere che un uomo può indossare, come non citare il bronzo. C'è la maschera di ferro, c'è la maschera di Pippo, ma la maschera di merda te la fa solo Spalman. Sì, le ragazze della palla al piede tornano domani, ma adesso è il momento della cazzuola di Spalman. Un tamarro dietro l'angolo voleva incularmi la Vespa, un tamarro dietro un altro angolo voleva incularmi la Caterina. Ma io ho chiamato Spalman, lui mi ha risposto dimmi, e io gli ho detto vieni qui che c'è bisogno di te per difendere me. Attenti cattivissimi perché è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalman che tutti spalmerà. Perché è arrivato Spalman che spalma la merda. Arriva Spalman e tutti spalmerà. Non c'è dubbio che Spalman sia un amico con le mani in pasta. 1992, Radio Milano International. Radio Milano International. Va in onda un morning show controcorrente, caustico, sregolato, irriverente. Conduce Fausto Terenzi. Al suo fianco Paolo Dini e una galleria di personaggi surreali registrati o in collegamento telefonico. Ad animarli quasi tutti è un cinquantenne tranese dalla parolaccia facile, divenuto popolare per una decina di cover in dialetto e per l'assidua presenza, sempre non richiesta, alle spalle dei giornalisti di Novantesimo Minuto. È Leone di Lernia. E sta per diventare il re del trash. Melanzane, pesce fritto, baccalà, magnando, banana, parmigiana, maccarone. Il suo modus operandi è rapido e letale. Prendere la base non autorizzata di un successo del momento e ficcarci sopra parole pugliesi sbilenche o tronche che parlano di roba da mangiare condita di outs. Nell'Italia delle discoteche, che sforna un disco al giorno, la miscela di musica e ignoranza è altamente esplosiva. E lo sarà per altri 20 anni. Cozzo, cozzo, patata, marruzzo, peste, fasulla e frittata di cipolla. Cozzo, cozzo, patata, marruzzo, peste, fasulla e frittata di cipolla. Cozzo, cozzo, patata, marruzzo, peste, fasulla e frittata di cipolla. Cozzo, cozzo, crede! Crede! Dopo Pino Pazzo, dopo Pino Pazzo, dopo Pino Pazzo, dopo Pino Pazzo, dopo Pino Pazzo, dopo Pino Pazzo. Dice che sei pieno quando è cozza da mangiare, lasciamo stare, lasciamo stare. Digerisce bene chi se cacca di cozza, lasciamo stare, credi. Dice che sei pieno quando è cozza da mangiare, lasciamo stare, lasciamo stare. Digerisce bene chi se cazzo di cozza. One, two, three, four. Quando il maccaro canta si mangia, mangio sempre tanto, molto sin de mal. Quando il maccaro canta si mangia, mangio sempre tanto, molto sin de mal. Pretty. Va lascia te, va lascia te. Dici che s'arrangia faccia solo bra show, lasciamo ste. Dici che a Peppino faccia bunda mangiare, va lascia te, va lascia te. Dici che s'arrangia faccia solo bra show. Bisogna essere molto intelligenti per sembrare stupidi. Per esserlo veramente, invece, basta sguazzare nell'ignoranza, non porsi domande, accodarsi al gregge. In un mondo che ci mette a disposizione tutti gli strumenti per comprendere, chi non ha voglia di capire è soltanto un cretino. Prima un tir, poi due tir, poi tre tir, out. Quattro tir, cinque tir, poi sei tir, out. Sette tir, otto tir, nove tir. 10 kill, 11 kill, 12 kill, out! Io c'ho fame, mangio il pane con salame, melanzane, melanzane, melanzane. Io c'ho fame, mangio il pane con salame, melanzane, melanzane, melanzane. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna sabato prossimo. Sabato prossimo. Alle 19. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Entonai. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.